per vedere se è giusto. E dove è lui? Da dove sta? Da il 0 è... Dov'è, cazzo? No. Il 0? Cos'è? Roma, no? Roma. Aspetta a vedere se è lui, perché mi sembra che ce l'ho già. Già impostato. Se è un radioamatore serio. Se è all'occhio da me vuol dire che è serio. Il Z0... Aspetta, Z0... CNZ. Charlie Indian Zulu, sì, Mauretto, provincia di Roma. Vai tranquillo, avevo un bravo radioamatore. Vai tranquillo, vai Luca. Vai tranquillo, che non esiste ne manco. Non c'è neanche questo nome attivo su QRZ. Vai tranquillissimo. Non c'è? Assolutamente no. Stai leggendo bene, sì. Charlie C I I come Italia, come Imola. Zulu C I Z. Cazzo, allora, Italia Zulu. Ok. 0 Cagliari, November Zulu. Cazzo, ma hai detto tu? Cazzo, no. Allora CN Zulu. Cazzo, se sei soldo, allora, Italia, Zulu, 0, C come Cagliari, N come Napoli e Z come Zaccazza e Zaccaglio. Ma tu hai detto I, C, I, Z, C, N, Z, aspetta che controllo, Charlie November Zulu. Sì, è sempre comunque provincia di Roma. Sì, sì, sì. Ma lasciamo la fare il bonifico. Sì, già c'è, CI non c'era, CN Zulu sì, Mauro sì, c'è un radioamatore della provincia di Roma. Cazzo Mauro, non si chiama Mauro. Mauro Berzoli, ma che cazzo si chiama? Non leggo. Ma tu ce l'hai, Mauro? Ecco, lasci di me, ma me la fotti lunga, ma io volevo collegare questo microfono, l'altro microfono, l'espandere, a vedere se funziona. Va a espandermi l'altro precipizio. Ok, aspetta un attimo. A me mi dà Mauro però. Andreozzi, le origini di Bergozzi. Andreozzi, già è lui, sì, è un radioamatore a provincia di Roma. Sì, già è un radioamatore. E cosa è Piglienni, Luca, la vittura di Mattore? 125, nuova, 3009. Cazzo, ma che nuova, no? Su cazzo di baracca, su graffiato. Io adesso come te temi, purtroppo è così. Voglio una cosa nuova. Ma cosa? Voglio una cosa nuova, ma come dice, non è manco scacciavittata, quella cosa rimane, verginella. Ma lo scippatore ce l'ha? No, c'ha il coso, la pittella dietro, e poi c'ha la tapparetta al fianco, poi c'ha i bolloni, cioè le vite e i bolloni. Lu, guarda che sta diluviando, non penso che riesci a uscire, ma diluviando però a me non prende giù di diluviare. Sì, ci faccio i campani. Sì, oggi ce l'ha. Arrivo subito. C'ha pure la fumaiola per quando scappa. Ah, la fumaiola, allora va bene. Mauro Andreozzi, sì. Mauro Andreozzi. Va bene. Sì, è una... C'ho anche come... Il Z0 c'ha il November Zulu, sì, ce l'ho anche collegato, L'ho collegato esattamente il 20 settembre 1919. 1900. Sono rincoglioni di oggi, ho tutti il cazzo al microfono. Non è comprato più nulla, ma c'ho la scrivania tutta piena di microfono, in cazzo. Lo fa boom e scoppia tutto. Vabbè Luca, e faglielo questo bonifico, cioè vuoi che Dio te la mandi a sana e buona, cosa vuoi ti dica? Non è detto perché un radioamatore cazzo sia così perfetto, cazzo, non è radioamatore tutti vecchi. No, se gli arriva il fumaiolo invece del coso, il forattino. Lascia fare il forattino, a me a Gianni da Napoli, che hanno mandato il Galaxy Saturn Echo, no, a me, a Gianni e a Salvatore Maestrale, che non volevano visti, e li hanno messi prima dentro una vasca da bagno e poi ce li hanno spediti. Va bene, là, si può... No, ma io sembra tranquillo la radio. Tu, quella cifra è nuova la radio, Ma Civiglia, quella è uguale al 3006 che ci avevo io, che è tua. Ehi, uguale. 2009, come quello che c'ha Marco Connor. Che è uguale, infatti. E che c'è un break. C'è un break. Un papperino, che prende il break. Ma Marco Condor, già lo sapete che qua qua maneggia. Che cosa? Mi sono di passi pomponi. Una roccia pomponi, faccio il vannino, faccio. Beto, sì, Beto. Si comprende un cazzo, si comprende per te, Fanni. Cazzo, già che c'è propagazione, in più non ti comprende nulla perché si fa vedere, se vende cosa, là, il papperino. Ascolta, mica hanno dato il via libera per il coronavirus, mi vanni. Feria. Vabbè, guarda, mi piace giocare, chiaro. Cazzo, lui è arrivato per il coronavirus, hanno dato il via, puoi uscire, mi vanni. Ah, capo, sta più a freno, tu, non lo so. A me lo sta più a freno, qui a freno. Non c'è un attuto, no, stavo giocando un cazzo al buco. Ho visto. E c'è questo spagnolo che è qua a casa di una didatta, per quello non riuscivo a capire chi era. Sì, sì, un po' di propagazione comunque. Gappa. Avanti, doppio rum. Ciao, mamma. Buongiorno a tutti, a todos. Oggi la devi raffurare tu, che... Luia. Cattadina. Ma là, già ci vuole un po' di casino. Ogni tanto fa bene, dai, casino così buono, però no. Non di chi su cazzo fa farraduie e roba del genere, per carità. Claudio! Ehi, dammi tempo, questo è l'altro microfono. Arriva la QRM, non riesco a. Oh, Massimiliano, questo è l'altro. Massimiliano, devo ascoltare meglio, aspetta. Ah, io, spostati al 21 di nuovo. Massimiliano. Ehi, dimmi. Ti ho detto che questo è l'altro microfono, quello grande della Perception, cazzo. Questo è più bello, questo è molto più bello. Esce meglio dell'Espander 500. Quello qua paragone, già. Adesso dirò, io sono un attimo in barone. Ora. Questo non c'ha tuni, ma questo esce molto, molto meglio di quello là. Mi piace di più. Vabbè, vuol dire che a me intanto non li devo usare perché posto non ne ho per... Però posso dire che sono tutti funzionanti, capito? Tranne quello dell'iGain che c'ha il connettore A5, quello non lo posso usare. Però il resto sono tutti funzionanti, dai. E io, questo è buono. Gianni, a tu non ascolti. Beh. Mi ascolti bene, quindi? Yes! Questo è quello tutto cromato della Perception, è un barrasone lo stesso che c'ha l'asta che si solleva e si abbassa. È come la mia. Su cosa lo stai usando questo qua? Sempre sul nostro, sull'Airbus 4082. No! Gava, questo c'è bene, mi piace. Gappa, non è un barrasone. Vabbè, l'ho abbassato, ce l'avevo a 8, l'ho messo a 7, dai, microfono a 7. Va bene. Basta, però, allora mi sono rompito le palle, finito. Adesso li metto tutti a posto. E sono praticamente tutti funzionanti, dai, tranne il, te l'ho detto, quello delle game, perché non c'ho il connettore, cioè non c'ho manco adattatori per provare, niente. Ma che finita va lì? Va bene, continuate, dai, ci sentiamo dopo, grazie dei controlli, Massimiliano. Mi hai sentito, sì? Oh, scusa che me l'ho suonato, dai, io devo scendere giù. Vanno bene comunque, vanno bene, dai, vi saluto a tutti, ciao. Tanto dai, cara, no? Va bene, ciao Massimiliano, ciao Gianni, ciao a tutti, ci sentiamo dopo, ciao, grazie. Ok. Ciao, ciao, ci sentiamo, buon pranzo. Buon pranzo, grazie Gianluca, Che non pare che tu? A me non ti di propagazione, arriva a 5-7, che al limite è lui. Grazie, addirittura non riesco, c'è momenti di raccolto, momenti che no. Allora, anche è una lontana, c'è stato bloccato. Adesso tanto che andiamo a mangiare, dai, tanto piove, non si bocca nulla. Brecco 10. Avanti! Allora, devo fare una domanda sul microfono e devo fare delle prove. C'è qualcuno oltre Gianni? C'è Ronnie! Allora, vediamo che hai fatto i piatti. Cazzo, aspetta che abbasso qua. Ascolta, io adesso sollevo un pochino il volume, ditemi come va questo microfono. Ah, la radio occupa. Così ho alzato un po' il tono, non mi più 5. Non è chiaro, no. Devi chiarificare la radio, molto occupa. Allora non si abbina bene, che ci posso fare io? Guarda così, 1, 2, 3, 4. No, aspetta, come detto non si abbina bene, sicuramente ti sei allontanato e stavo uscendo bene. Prova a distanziarti un po' dal microfono. Allora, forse è anche troppo amplificato, non lo so. Dimmi più di tutto come sta uscendo questo microfono. Prego l'amplificazione dell'apparecchio, vediamo un pochettino il MacBook. No, il MacBook non la so come in genere. Dimmi se ti sembra poco troppo amplificata. Beh? Antonio, di te ne sono la portante nutta. Antonio ha detto che c'è un transistor in corto. Ma era un transistor in corto. Se ce n'è uno solo, se è in corto con capo lo uccide il microfono. Non so che dirti, Fabrizio. No, stai uscendo bene. Certo, ho detto stai uscendo bene. Sei troppo cupo come radio. Ascolta, io ho quest'altro tono, sto girando questo tono. 1, 2, 3, provo, ho girato questo tono. Com'è? Adesso va meglio. Adesso ho messo il tono a zero praticamente e ho sollevato un po' così, mi devi dire com'è un MB più 5, io non me lo conosco. Ah, e tu mi hai messo a zero, provo a aumentare l'amplificazione, vediamo. Allora, adesso vabbè, l'amplificazione del microfono più o meno è al massimo, per non toccare quella della radio adesso, e i toni sono a 1, diciamo, dai, li ho messi a 1. Ehi, adesso è chiara, Fabri, adesso è chiara la modulazione. Anzi, sono ne ha 1 questo, non è che ne ha molti. Allora, togliamo lo squelch perché non sentivo nessun altro, tolgo lo squelch. Adesso già, considera, secondo te, vabbè, l'importante è che sia chiara, dai. Sì, la radio è chiara adesso, a confronto con la prima che la cupa non si capiva nulla, boh. Questo è collegato al capo, lo devo portare a Riccardino questo microfono, questo è il mio più 5 che ho cablato. Secondo te posso sollevare ancora un po' il Mickey Gain? Sì, il Mickey Gain sì. Allora, poi lo regolo nuovamente. Adesso ho sollevato un po' il Mickey Gain. E adesso va ancora meglio, si sente ancora più forte. Quindi diciamo che questo MP5 regolato in questa maniera spinge abbastanza. Kappa, sì, sì. Prova a lasciatelo un po' distante dalla bocca, vediamo un pochettino se è ancora più chiara la radio. Allora, aspetta, abbasso la potenza. Va bene, va bene. condizioni qua, vabbè, poi da regolare sull'altro apparecchio, perché qua basso, questo direttamente lo sto alimentando dalla radio, lo devo dare ritardino, perché qua l'MC60 che gli ho dato, quando va in amplificazione ha problemi, anche se esce molto bene, quindi con questo dovrei uscire un po' più forte, e poi l'altro microfono lo controllerò con calma. La verità è che con l'MC60 Fabri non amplifica molto la modulazione, esce basso di radio e forte di segnale, ti dico la verità, quello che penso io. Io infatti quello lì praticamente stavo andando quel microfono in questo momento senza amplificazione con l'MC60 e quello praticamente che ho tutto ricostruito che non ne valeva la pena e quindi magari c'è qualche cosuccia, però adesso l'ho cambiato questo è un bel microfono MP5 e così in questa maniera mi sa tanto che lui problemi non ne abbia. Ascolta un pochettino Fabri, se tu spegni quel rumore voglio sapere se dipende dal microfono o se dipende da quello che c'è in casa tua, perché si sentono dei rumori sottofondo, forse il vento, non lo so cosa sia. Sono attaccati gli strumenti da laboratorio, sono di vento, l'alimentatore, sto facendo digitale, si è attaccato un sacco di roba, me lo vedo se io quando metto la porta antimuta. E sentite adesso qualcuno che stava parlando addirittura, che almeno non sento nemmeno quasi con l'orecchio, un'altra radio. Vabbè, io sto usando lo stesso microfono, prova. E allora, ciao Vanni, via Claudio. Claudio, come lo senti? Alla grande, nessun problema. Fortissimo e va benissimo. Allora, l'MP4 l'altro, l'ho cambiato, che adesso ho iniziato a lavorare, avevo preso già per disaccoppiare la capsula, e vai ad aprire, e c'era una capsula taroccata di quelle piccoline nuovamente, dove mi metto a lavorare, allora sono passato da Cosio che non ha preparato, da Roberto Quadrato, me l'ha dato, quindi gli ho messo uno spinottino otto chili, l'ho alimentato direttamente dalla radio, e gli do questo, e lui è a posto al momento, anzi, prende anche uno di quegli alimentatori switch, perché quelli da 30 ampere, che io li tengo sempre di scorta, perché solo su ieri ho sentito un po' di rumore di alternanza, ha problemi con l'alimentatore, forse ha problemi con un apparecchio del genere, lui c'è 30 ampere, ma l'ho visto se ne scende, mettono di quelli, siamo sicuri che così è, lui è a posto, va. No, va bene Fabri, non ti preoccupare che va benissimo, alla grande, io sto usando qua MB+5 con i toni a 2 e l'amplificazione ce l'ho a 5. Cazzo, passata l'acqua ragazzi. Va bene Fabri, lascialo stare così. Va bene, non è pure a 1 al momento, va bene, poi le devo regolare lui. Va bene, ascolta, adesso io stacco questo, mi ricollego il mio MC60 e probabilmente sarà da toccare un attimino il mitigante. Siamo qua, prova, siamo qua Fabri. Gianni, questo quindi ti piace il microfono? Lo posso mettere da parte allora? Così, vabbè, già può andare, dai, ma non è che sia una grossa modulazione, dico la verità. Non... Che cos'è questo qua? Questo è il Perception con l'Elbex 4082. Vabbè, dipende dai gusti, ma a me mi sembra un po' citofonica, come non lo so, sembra che stia parlando da un megafono. Già, cazzo da un megafono, è uguale all'altra modulazione, ti posso passare i toni, te li tiro ancora più su, guarda, 1, 2, 3, 4, è sempre la regolazione, tu me lo devi dire, non è che lo posso stabilire io, guarda, così i toni sono a 3, lo stesso, anche questo c'è i toni. Non cambia nulla, è sempre uguale. È sempre uguale, Massimiliano ha detto che cambia, da te non cambia, vabbè dai. Comunque a me mi interessa che i microfoni escano, poi non è un problema, dipende sempre dalla radio. E infatti, dipende dove la abiti, infatti se l'altra radio non va bene. Vabbè, allora questo lo mettiamo così, ecco qua. Allora mi sembra che era così questo, ecco. Allora questa qui è la stessa regolazione dell'altro, to? Va meglio così. Se però non me lo dite, cosa volete vedere? Non lo so. Questa è la stessa regolazione dell'altro, mettiamo il tono come era prima, ecco qua. Va bene, dai. Quindi lo lasciamo. lasciamo stare così. Adesso va bene, non è come prima. Prima era come se parlassi dal megafono, okay? Ma già, te l'ho detto, andava magari regolata, non lo so, va bene, dai. Perché anche questo c'ha i toni, quindi l'ho messo come l'Expander 500. Anche se non è il top, mi piace di più l'altro, come si chiama, ma... E vabbè, quello grande che stai usando per primo, quello lì mi piace di più. Però vabbè, dipende sempre poi dalle radio su cui lo metti, dipende da tante cose. L'Expander 500 te l'ho detto, è sempre un target già, non è che lo puoi, quello è un Turner, non c'è niente da fare, il Turner e Turner sono molto molto più caldi, dai, vabbè, comunque questo lo mettiamo così adesso, poi si vedrà, dai, ok? Grazie, aspetto se Fabrizio ha bisogno di qualche altro controllo. Allora, questo è l'MC60, io non vorrei che sia troppo alto adesso. No, va bene. Va bene, lo lascio come lo così, dai, lo lasciamo così. Posso sollevo leggermente, mi auguro di successo sollevando leggermente. No, tu non, intanto c'hai un vocione rispetto a lui molto più grosso, Fabri, quindi sicuramente lui fa meglio di te. Vabbè, l'MC60 è questo mio che devo tenere io. Sembra che vada bene, vero? Sì, va bene. Vabbè, quello può regolare. Comunque l'altro, diciamo, non aveva rumori strani, a parte le ventole che senti, che qua c'è un macello. No, ventola, ma io rumori strani intendo alternata, intendo inneschi. Quando io sento una ventola non ci faccio neanche caso, perché non sono rumori, sono rumori di stazione, di sala radio. Va bene, dai, si chiude, fa un po' la vanno, magari che prova a richiudere un'altra po' di roba, perché c'è troppo che non ci capisco più niente. Dai, a dopo, grazie, lui quello lì a posto, ma si deve stare a posto anche un'altra cosa, così finiamo tutto anche lì a posto, dai. Bene, dai, ci sentiamo, grazie mille, buon proseguimento. Ciao Fabri, non c'è problema, siamo qua quando hai bisogno, ciao ciao. Allora, doppio room, me lo dai questo segnale? Lo devo chiudere così o cosa devo fare? Così va bene Claudio, lascialo così che va bene. Ma guarda, l'alimentatore che è 16, come mai, non vuole regolare. A 16? Cioè l'alimentatore a 16 volts? Sì, ma non c'è nulla attaccato qua. No, sto sbagliando. È a 13, dai. 10, 12, 3, a 13 volts. A 16 avresti già bruciato tutto, ma stai scherzando? Il massimo è 13, 8, 14, to. Ma devi avere radio che lo sopporta, se no. Va bene. Adesso questo è l'unica cosa, devo controllare se ha la capsula originale, perché non mi convince molto. Ok? Perché il coso, l'Expander 500 c'ha la capsula originale marcata Turner, questo non lo so, non lo conosco questo microfono. Ma si sente l'Expander 500 la capsula originale, ha proprio la sua modulata, io mi ricordo, lo dico che era con la risata a casa, si sentiva con il respiro. Vabbè, non lo so, comunque questo è originale, perciò non lo so se funziona bene. Questo cosa cacchio è? Ora, ecco, questo è per aumentare il volume della preamplificazione, dai, vabbè. Ok, già, allora lascio così, dai, a me interessava che funzionavano tutti, già, vabbè. Ma Turner più terra te l'ha portato, vero? No, come Turner lui intendeva l'Expander 500, capito? Come Turner intendeva l'Expander 500. Ah, ecco. No, perché qua vorrei provare il Turner più 3 col Galaxy, per vedere come va, se va meglio di questo o se va meglio. Io Turner più 3 normale non ne ho, l'avevo dato a Gavino Joker, capito? Se no te l'avrei dato a provare, capito? Non lo so chi ce l'ha, provo a chiedere, chi ce l'ha, Tino, non lo so, Antonio, non lo so. Allora, vabbè, già lo proverò anche in vendita piano piano, però non sta vendendo più nessuno il contrassegno, tutti PayPal, no, io non... siamo usciti. Allora già, se hai un secondo solo me lo dai che cambio microfono, tolgo questo e metto l'ultimo. E così lei che è un MB più 5 nuovo nuovo lo stesso. Per vedere se è modificato, perché il mio è modificato, forse quello non è modificato. Così mi dici se va bene lo stesso, metto tutto dentro gli armadi e ciccia, ok? Un secondo. Ma hai preso quello di cosa? Di fusare? Cosa già? Hai comprato quello di fusare un MB più 5? No, sempre in questo blocco. Adesso ne ho 2 MB più 5 e 2 MB più 4. Sempre in questo blocco era. Aspetta che tolgo questo e metto lo MB più 5. Caro, io sono lo suyo, caro. Che yo te he traído es mío gratis. Sí, lo que han quitado, digo, de no subir el papel y ahora ya, pues no se tiene que bajar y la mujer, una amiguilla menos. Eccolo qua. Allora questo è cazzo, è cacchio. Allora questo pompa, questo MB più 5 modificato, bella modulazione. Questo è bello, questo me lo prendo io. No già, non ne avevo neanche uno. L'ho presi un microfono per ogni radio, però questo è bello. Caspita, sono in cuffie, minchia, c'è un abisso. Questo è bello, questo devo vedere che capo se la c'ha, sicuramente è stato modificato. Bella modulazione questa. Secondo me questo qua è quello più bello, più chiaro, più bello che c'è. Guarda, ti mando la foto nuovo. Ti mando la foto nuova, però non li do Gianni. Non mi chiedete microfoni perché io me li sto comprando, perché li sto praticamente collegando un microfono ad ogni radio. Allora, questo MB più 5 va sicuramente qua. Questo è sul Polmar 7000, quindi il mio più 5 va sull'Elbex e non si discute. Questo più 5 va sul Polmar e non si discute perché è bellissima. E l'Expander 500 va sul DAC. Perfetto, guarda, ce li ho tutti collegati. Adesso sul Carradio 6 con il mio più 5. Sul Polmar 7000 Dix è una cannonata, va molto bene. Sì, va molto bene su questo apparecchio qua, si adatta. Sì, ottimo per la truppa, veramente bene. Gianni, io ti ringrazio della, come si dice, vabbè. Te lo volevo dire in fretta, dai. Insomma, che mi hai seguito, e adesso ritiro tutto e me ne vado a mangiare a chi va giù, blu fammi. Ok? Grazie già, Grazie, sentiamo stasera. Collaborazione, ci vedo. Ciao, ci sentiamo, buona carica. Ciao a tutti, ciao Fabrizio, se ci sei, ciao a tutti gli amici che sono nascosti. Ma fate la vega. Chi era? Massimiliano, tu sei? Massimiliano. Chi stava parlando? Io stavo salutando, non lo so se avevamo durato a me, No, c'era uno sotto di te, non ho capito chi era. Chi è avanti? Io ti metto la parola, collaborazione, 5 euro. Ma tu sei Fabri? Io, perché stai scendo troppo forte, male? Sono mai fatto giorno, non riuscivo a capire, cazzo. Ammazza appena che sono col baracchino. Va bene, allora parlo così, che continua a fare la voce. Ehi, lascialo così, lascia. Ehi, un blocco di microfono ho preso Fabri, ma uno più bello dell'altro. Ma funzionano tutti, dai. Va bene, sono qua comunque con Rix, Ok, a dopo ragazzi. Ciao Giantò, perdonami che non ti ho manco cagata stamattina. Questo è l'ultimo dei microfoni, ma mi sembra che è quello che va meglio di tutti, assieme all'Expander 500. E quello l'hanno già passato. E io c'ho il cane, il topo lo fa mia moglie. Sì, mi intendi qua. Va bene, a dopo ragazzi, dai, ciao. Ciao Antonio, ciao. Marco, che stai anche, non vedere male. qualcuno che mi stava chiamando?